Pagina 14. Quando partecipiamo a una danza, a un flusso locale, le mosse sono definite dalla danza stessa. C'è la danza dell'aggressività, la danza della malizia, la danza della persecuzione e via, e così via. Ogni danza crea un campo morfico che genera cioè delle forme. Quando entriamo in una danza, finiamo per ricoprire uno dei possibili ruoli che la danza stessa prevede. Le danze si distinguono in danze distruttive e danze invece costruttive. Le danze distruttive portano a una involuzione della persona. Le danze costruttive portano la persona a evolvere verso livelli più alti di consapevolezza, di amore e di gioia. Quando una persona offre una danza ad un altro, ad esempio ti offro una bottiglia di grappa da bere, e mettiamo, so che a te la grappa fa male, te ne verso sempre di più, e tu accetti di bere, bene, io ti ho offerto la danza, tu hai accettato, tu stai male, e a questi punti magari tu mi accusi di averti offerto la grappa. In realtà siamo complici della stessa danza. Ci sono musiche, danze, flussi personali, anche all'interno della propria mente, danze di coppia, di gruppi, collettivi. Noi siamo attivi solo se manteniamo la consapevolezza sul tipo di danze che pratichiamo. E quindi scegliamo danze, flussi che sono costruttivi, che sono evolutivi. Negli altri casi, quando agiamo senza consapevolezza, finiamo regolarmente per partecipare a danze distruttive e involutive, ci rendiamo passivi, impotenti. I risultati sono evidenti, perdiamo leadership, ci sconnettiamo dalla grande mente, e siamo affetti da sensi di colpa, depressione, ansia, paura, da vergogna. Quindi colpa, depressione, vergogna sono segnali che siamo usciti dalla grande mente e stiamo praticando la piccola mente e le danze distruttive e il linguaggio violento. Quando abbiamo dei sintomi come la colpa, l'ansia, la depressione, siamo abituati dal linguaggio violento e distorcente che ci appartiene e che usiamo abitualmente ad attribuire questi sintomi a fatti, a contenuti parziali e non al tipo di danze, flussi, qualità delle relazioni alle quali partecipiamo. Qual è la differenza tra il paradiso e l'inferno? Il paradiso e l'inferno possono essere sulla terra e siamo nel paradiso quando partecipiamo a danze costruttive e siamo all'inferno quando partecipiamo a danze distruttive. L'affermazione non disperdere il seme, in questo senso, va inteso, secondo questa logica, va inteso in questo modo. Noi siamo dotati di una certa quantità di semi. Semi di che cosa? Semi d'amore. Questi semi d'amore vanno piantati dove possono crescere. Se disperdere il seme significa mettere i semi d'amore in situazioni, relazioni, attività nelle quali questi semi d'amore sono destinati a perire e a disperdersi. Il metamodello 2 è il linguaggio dei sentimenti, dei bisogni universali, delle qualità delle relazioni, delle forme d'onda, dei flussi circolari, dei campi morfici che ci accomunano e che sono impersonali, così come impersonali sono le note della scala o i colori. Vedremo che il metamodello 1, 2 ci insegna a non personalizzare le nostre esperienze, ma vedere in ognuna delle nostre esperienze la presenza di processi, danze, che sono impersonali, cioè che sono universalmente praticati dagli esseri umani. Questo ci dà la capacità di identificarsi, di osservare questi flussi dalla grande mente, osservarli senza giudicarli, ma distinguendo bene tra quelli che sono costruttivi e quelli che invece sono distruttivi e che ci portano a soffrire. Fine del senso di colpa, fine del senso di separazione, di paura, rabbia e tristezza. Quindi fine della sofferenza nevrotica o innecessaria.